Europa 24. Buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Questa mattina la Commissione europea e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno presentato il rapporto annuale sull'educazione. È una pagella piena di insufficienze, quella che l'OCSE assegna alla scuola italiana, ma l'organizzazione segnala anche i progressi fatti su alcuni fronti. Il rapporto pubblicato oggi evidenzia l'austerity che pesa sul sistema scolastico italiano da oltre 15 anni e relega la penisola a fondo classifica per le risorse dedicate all'istruzione. Solo il 4,7% del PIL nel 2010, la stessa percentuale del 1995, e tra il 2008 e il 2010 la spesa è stata tagliata del 7%. Lo studio punta anche i riflettori sulla penuria di laureati rispetto agli altri paesi e sull'emergenza di una crescente disaffezione verso l'istruzione universitaria, che non pare più offrire adeguate opportunità di lavoro e stipendio. Tra gli altri nodi, l'età del corpo docente, il più anziano dell'area OCSE, è pagato meno che negli altri paesi. Sul fronte positivo, i progressi fatti dalle donne. Una su quattro tra i 25 e i 34 anni è laureata, contro uno su sei tra gli uomini. Il dato più saliente è però il miglioramento nei risultati di apprendimento dei quindicenni italiani, che, nonostante i tagli, sono migliorati in matematica e in scienze. Il che porta l'OCSE a dire che il sistema sembra essersi diretto verso una migliore efficienza dell'uso delle risorse. I 27 dell'Unione hanno raggiunto un accordo per il rilancio dei negoziati di adesione con la Turchia, lo riferisce la presidenza irlandese di turno. La riapertura dei colloqui era stata messa a repentaglio dalle tensioni scatenate dalla dura reazione delle autorità turche alle proteste contro il governo Erdogan di queste settimane. I negoziati riprenderanno però ufficialmente solo in autunno. Dal 1 luglio, invece, l'Europa si allarga per accogliere il 28esimo Stato membro. La Croazia aggiunge la sua stella sulla bandiera europea. Tina Saric è la direttrice dell'agenzia governativa croata, agenzia che si occupa della mobilità e dell'applicazione e implementazione dei programmi europei. Il programma di mobilità non è strettamente connesso con l'Unione, ma, afferma la dottoressa Saric, è una possibilità. Ci sono fondi disponibili. L'impegno è quello di rendere soprattutto i giovani più consapevoli di questa facoltà. Discussioni tese sulla riforma della politica agricola comune tra i ministri dell'agricoltura riuniti a Lussemburgo. Domani il Parlamento ha convocato a Bruxelles la propria commissione agricoltura per dare, in caso di intesa politica con il Consiglio, l'imprimatura alla riforma. Ovviamente per noi è molto importante questo negoziato perché parliamo anche di finanziamenti e quindi soldi che vanno alla nostra agricoltura, l'agricoltura sana, di qualità, alle eccellenze della nostra terra che ci fanno e ci rendono noti in tutto il mondo. Lo dice anche il ministro per le politiche agricole italiane Nunzia De Girolamo. La posta in gioco per i fondi all'agricoltura è alta. Parliamo di 52 miliardi di euro, circa 7 miliardi e mezzo l'anno, da ripartire su 6 anni dal 2014 al 2020. Si lavora quindi a Lussemburgo al negoziato sulla riforma della politica agricola comune. Il commissario europeo all'agricoltura Ciolos ha intanto incitato i ministri che si occupano di questo settore a dare un mandato realistico. Tra i principali nodi da sciogliere l'obbligo di accordare un aiuto supplementare ai giovani agricoltori per i primi 5 anni dall'avvio della loro azienda, ma la Germania non ci sta. Domani anche il Parlamento europeo a Bruxelles si occuperà di agricoltura. La grande novità del negoziato è che infatti per la prima volta l'Europarlamento ha voce in capitolo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cerimonia di insediamento oggi per il nuovo presidente di Business Europe. Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, guiderà gli industriali europei dal prossimo 1 luglio. L'imprenditrice mantovana sarà a capo della Confindustria europea con un mandato di 2 anni, rinnovabile una sola volta. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo la manifestazione L'Europa che non conosci. Viaggi, racconti e immagini tra Trentino e Balcani, in programma a Trento dal 27 al 29 giugno. La 3 giorni è ricca di appuntamenti, eventi e iniziative per raccontare le relazioni tra il Trentino e i Balcani, ragionare del presente e del futuro dell'Unione, di sviluppo, di turismo sostenibile, di socialità e di marginalità, di Europa e di Mediterraneo. L'evento è il momento conclusivo del programma SINET II, una rete translocale per la cooperazione tra l'Italia e il sud-est Europa. Tutto il programma è scaricabile all'indirizzo trentinobalcani.wordpress.com. Ed è tutto per questa edizione. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.